America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Voglio cominciare con un paio di notizie economiche piuttosto interessanti. La Federal Reserve ha rilasciato i verbali delle sue riunioni. Emerge che il Consiglio è un po' diviso su come procedere con un nuovo quantitative easing, quindi con un nuovo allentamento della manovra monetaria. Lo si farà solo se l'economia è in difficoltà. Sembrava che l'America fosse in una fase di ripresa, i sondaggi a favore di Obama erano migliorati proprio per la percezione di un miglioramento dell'economia. Ebbene, negli ultimi giorni però abbiamo avuto qualche intoppo, ma non voglio dilungarmi sull'economia oggi, perché l'America è presa da una specie di raptus sportivo attorno a un nuovo personaggio di cui voglio parlare. If you haven't heard his name yet, well, where have you been? Jeremy Lin, the New York Knicks point guard that's caught the NBA world by storm. L'avrete capito, voglio parlarvi di Jeremy Lin, la star, la nuova star della pallacanestro americana. Devo dire, una storia affascinante, perché Jeremy, figlio di immigrati taiwanesi, nato a Los Angeles, 23 anni, star del basket adesso nei Knicks, ma una star improvvisa, una stella che esplosa nella costellazione dei giocatori di basketball senza che nessuno se lo aspettasse. È esplosa così, è nata per una serie di coincidenze, e devo dire che questo signore ha cambiato improvvisamente nel giro di poche partite lo scenario non soltanto dello sport americano, ma anche quello politico. Knicks have beaten the Wizards 7 straight times. Nobody stopping Jeremy Lin on that play. Cominciamo dalla partita di martedì, la partita del giorno di San Valentino. Ha travolto la passione dei fan dei Knicks, perché, pensate, a 3 secondi dalla fine, quando ormai i Knicks sembravano destinati alla perdita di questa partita contro Toronto, da fuori area è riuscito a segnare, a fare 3 punti, portare la squadra in vantaggio e vincere. Ecco, lo stadio è impazzito, i giocatori sono impazziti. Pensate che in quella partita dell'altra sera i Knicks perdevano per 17 punti, erano in svantaggio di 17 punti, 27 punti li ha fatti Lin e 11 sono stati fatti grazie a dei passaggi, a delle situazioni che sono state create da lui. E la 6ª partita consecutiva che i Knicks vincono, e che vincono grazie a lui. Dov'è la storia? La storia è che intanto Jeremy Lin è il primo cinese americano, ma comunque cinese, figlio di cinesi immigrati da Taiwan, a giocare nel torneo della National Basketball Association, il torneo della NBA. Ma c'è anche una storia appassionante, un po' da Cenerentola, perché insomma Lin è stato a Harvard, molto bravo, era un grande giocatore, era nelle varie squadre dei college, e poi dopo il college è stato assunto dai Lakers, la squadra di Los Angeles, quindi doveva essere la squadra della sua città, però i Lakers l'hanno sempre tenuto in panchina, era in qualche modo un po' sottovalutato. I Knicks alla fine lo hanno comprato il 27 dicembre, subito prima della fine dell'anno del 2011, lo hanno preso come riserva. È giovane, ha 23 anni, però è chiaramente anche nel pieno delle sue forze, e ha sempre giocato di nuovo in panchina. Era un po' il brutto anatroccolo, non si capiva perché questo giocatore non potesse avere questo suo momento al sole. Che succede? Succede che Anthony, una delle grandi star dei Knicks, ha un infortunio, e quindi così, malvolentieri, l'allenatore, la proprietà dei Knicks decidono di schierare Lin senza troppe speranze. Ecco, da quando è stato schierato, la fortuna dei Knicks è cambiata. I Knicks perdevano, erano in una pessima posizione di classifica, non riuscivano a trovare il ritmo di questo loro campionato e delle loro partite. Con Lin improvvisamente il quadro è cambiato. Il mondo è impazzito. Quando dico il mondo, intendo non soltanto gli americani, i tifosi dei Knicks, e comunque il mondo del basket in generale, che come sapete ha forte presa sull'immaginario collettivo degli americani. Beh, sono impazziti i cinesi. Negli ultimi giorni sono stati registrati milioni e milioni di micromessaggi in Cina, nella Cina continentale, attenzione, non a Taiwan. Cioè si è scatenato un momento di orgoglio per questo cinese che diventa campione in una delle più importanti squadre di basket, e questo orgoglio è esploso. È esploso al punto tale che le autorità cinesi sono imbarazzate e non sanno bene che fare, perché per loro riconoscere che ci sia questa simpatia automatica per così una forma di sogno americano che si realizza, beh, insomma, non va bene. E dunque i censori non sanno più che pesci prendere. C'è stato un articolo ieri mattina del New York Times dedicato esclusivamente a questo. Il Financial Times, pensate, ha dedicato un articolo di prima pagina a questo imbarazzo cinese nei confronti di questo campione americano che rappresenta quei valori di libertà, di democrazia, di possibilità di merito meritocrazia, quei valori, insomma, che appartengono più all'America che alla Cina. Piccola crisi diplomatica? Non credo, perché sentite che sta capitando proprio in questi giorni in America. Well, we think this is the biggest thing that's happened in Iowa in a long, long, long time. We had the Pope visit here in October 4th of 1979, and before that Nikita Khrushchev came in 1959, but I think this is of even bigger significance than either of those major international visits. China has a very strong and growing economy. La voce che sentite è di Terry Branstad, governatore dell'Iowa. Branstad ha dato il benvenuto al vicepresidente cinese Xi Jinping, che si è trovato in visita negli Stati Uniti. Vi ho raccontato ieri che aveva visto Barack Obama. Ebbene, è andato in Iowa. Beh, sembrerebbe misterioso che questo vicepresidente cinese vada a fare una visita in Iowa, ma c'è una ragione e soprattutto c'è il grande entusiasmo della popolazione dell'Iowa, del governatore, il quale dice che questa visita è addirittura più importante di quella che ebbero del Papa nel 1979 e prima ancora del Papa nel 59, quando venne Nikita Khrushchev. Beh, Xi Jinping è il vicepresidente cinese, ma si sa che sarà il nuovo presidente al posto di Hu Jintao, dunque è uno degli uomini più potenti del mondo, e soprattutto è stato in Iowa quando era molto più giovane, nel 1985, a 30 anni, quando con una delegazione di esperti cinesi venne per studiare l'agricoltura americana. Andò in questo minuscolo paese dell'Iowa, Muscatine, che ospitò questa delegazione, smistò la delegazione in varie case di varie famiglie americane e dunque Xi Jinping è uno dei pochi cinesi dell'alta gerarchia, dell'alta nomenclatura cinese, ad aver vissuto dentro una casa americana. Di quel periodo conserva un ricordo fantastico e dunque per questa ragione ha voluto andare in Iowa e rendere omaggio a questo stato che lo ha ospitato in gioventù e che secondo lui e secondo gli americani rappresenta un legame ideale che va ben al di là delle polemiche che possono esserci in Cina per il successo di un giocatore di basket in America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Questa settimana continuo a farvi ascoltare alcuni dei brani premiati ai Grammy Awards. Nella categoria miglior artista emergente, Bon Iver, Holocene. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.